Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Yemen, il ministro dell'interno, il capo di Al-Qaeda ancora in fuga. A Reggio Calabria il vertice con Maroni, Alfano contro la criminalità, lodo Alfano, l'immunità diventa più lunga, i giorni neri del Frecciarossa 3 su 4, arrivati in ritardo. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, dalla redazione di Radio 24 del Sole 24 ore. In apertura alla lotta al terrorismo nello Yemen, il ministro dell'interno yemenita Al-Qaeda ha reso noto che il capo locale di Al-Qaeda, Ahmed Al-Anak, è ancora in fuga. La notizia del suo arresto in un ospedale era stata data ieri da fonti della sicurezza, ma tre persone sono state arrestate in ospedale come sospetti membri di Al-Qaeda, ma fra loro non c'è Al-Anak. Sentiamo il commento sulla situazione nello Yemen di Alberto Negri. Le notizie dallo Yemen, già incerte, si accavallano con quelle sullo Yemen. Siamo sicuri che il regime del presidente Abdullah Saleh sia davvero capace di affondare il coltello nella piaga del terrorismo islamico? I dubbi sono legittimi, anche soltanto limitandosi a commentare le notizie. Ieri gli yemeniti hanno annunciato la cattura di uno dei capi di Al-Qaeda, Mohammed Al-Anak, collegato alle minacce contro l'ambasciata USA a Sana. In realtà le autorità starebbero ancora negoziando il suo arresto con le tribù che lo proteggono. Ci sono equilibri di potere in Yemen che non possono essere sacrificati alla lotta al terrorismo ed è proprio per questo che il ministro degli esteri Al-Kirby si è dichiarato contrario all'arrivo di truppe straniere nel paese. Lo Yemen non deve andare alla deriva. Un altro stato fallito in questa regione, dopo la Somalia, potrebbe rappresentare una disfatta per la sicurezza internazionale. Per il presidente americano Barack Obama, in vista della conferenza di Londra del 28 gennaio su Afghanistan e Yemen, si presenta un'equazione complessa ma assai interessante: salvare un paese senza un intervento militare diretto. Alle 13:03 minuti e 26 secondi apriamo ora la lunga pagina italiana. Il nostro racconto parte da Reggio Calabria, perché oggi è il giorno di un vertice importante che giunge a pochi giorni da un attentato gravissimo contro i magistrati che stanno indagando i prima linea contro la criminalità organizzata, e anche un allarme bomba quest'oggi che si è poi risultato solamente un petardo, ma questo fa capire anche qual è il clima di lo stato di tensione in cui versa Reggio Calabria e con cui quotidianamente lavorano i magistrati calabresi. Raffaella Calandra. Tre candelotti collegati ad una miccia davanti all'aula bunker nel giorno del supervertice, in una città già blindata per la bomba alla Procura Generale e per l'arrivo di ministri e capi delle forze dell'ordine. Il ritrovamento di un congegno, sia pur ben poco offensivo, ottiene l'effetto di far salire ancora di più, se possibile, come dicevamo, la tensione a Reggio Calabria. Ed è quindi in un clima di fibrillazione massima che si terrà nelle prossime ore il summit per la sicurezza, anche se l'allarme dato dalla custode degli uffici giudiziari ora sembra essere rientrato. Dai primi risultati degli esami degli artificieri, infatti, sarebbero petardi di cartone, alcuni esplosi, altri no, ma ben confezionati, quelli che avevano fatto scattare l'allarme ordigno. Sembra un'azione dimostrativa, commentano i primi inquirenti, ma potrebbero anche essere un residuo dei botti di Capodanno, riferisce il procuratore capo Giuseppe Pignatone, secondo cui non sembra esserci alcun avvertimento particolare. Di sicuro il clima è diventato ancora più incandescente da prima linea ed è qui che lo Stato si appresta a dare il suo forte segnale di presenza. È una giornata importante, prevede il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, arrivando nella punta dello stivale. I ministri dell'interno e della giustizia, Maroni e Alfano, annunceranno l'invio di uomini e mezzi, la nomina di tre nuove toghe per andare a colmare alcuni dei posti scoperti di questi uffici giudiziari e la conferma che Reggio Calabria ospiterà la sede dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. La situazione in Calabria forse è come quella in Sicilia di 50 anni fa, notano molte toghe, alcune delle quali provenienti proprio dall'isola. Ed è per questo che lo Stato è importante che dia, come in quel caso, un segnale forte, ribadisce il procuratore Grasso. Ed è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Naturalmente su questo vertice Avremo servizi, collegamenti, approfondimenti, è una delle notizie chiave importanti della giornata. E le riforme al centro del dibattito della politica tra maggioranza e opposizione, in diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Un piano di riforme che possa rilanciare l'attività del governo, che rafforzi la coalizione di centrodestra in vista delle regionali e consolidi così l'uscita del paese dalla crisi economica. A Palazzo Chigi si lavora al programma del 2010. Nelle intenzioni di Berlusconi, l'anno che si è appena aperto dovrà essere di svolta. Da qui la tabella di marcia indicata dal Premier, riforma della giustizia, poi quella della scuola, quindi gli interventi sul fisco. E proprio quest'ultimo punto è quello che fa discutere maggiormente. Un taglio delle tasse non sembra infatti all'orizzonte. La situazione economica, ha chiarito più volte il ministro Tremonti, non lo consentirebbe. Oggi le precisazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bonaiuti, quella fiscale è una delle riforme da fare, ma non immaginate, spiega, che la riforma sia il taglio. Ma da dove partire dunque? Sappiamo che il reddito fisso è il più tassato, dice ancora Bonaiuti. Il capitolo giustizia, poi, il portavoce di Berlusconi dice ancora: la nostra riforma non è costituita da leggi ad personam, come qualcuno dice, ma rappresenta la risposta a una giustizia ad personam che ha colpito il Premier. Sulle riforme interviene infine il Presidente del Senato Schifani, che spiega che la Costituzione va modernizzata, ma non nella parte dei valori. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Tre provvedimenti già calendarizzati. C'è il nuovo Lodo Alfano, che dopo la bocciatura della Consulta sarà presentato come legge costituzionale in Senato l'11 gennaio. Secondo le descrizioni, questa volta sarà reiterabile e si potrà dunque usare, cioè anche cambiando carica. Inoltre non vi si potrà rinunciare. Il testo è quasi pronto, l'hanno firmato il vicepresidente dei senatori del Popolo e Libertà Gaetano Quagliariello e numero 2 della Commissione Giustizia Roberto Centaro. Nulla è definito, dice però Quagliariello al microfono di Maria Luisa Pezzali. La settimana prossima, presieduta dal presidente del gruppo del PDL Gasparri, ci sarà una riunione al gruppo del Senato della maggioranza e lì decideremo quale proposta e quale strategia. C'è ancora un'alea di dubbio se è costituzionalizzare il Lodo Alfano o andare verso la proposta Chiaromonte-Compagna, che invece prevede una sospensione dei processi per tutti i parlamentari, che evidentemente non influisce sui tempi di prescrizione. Ecco, nel caso sia il Lodo, ovviamente terremo conto di quella che è l'ultima sentenza della Corte Costituzionale. Nell'ultima sentenza si dice chiaramente che quelle concessioni che vengono fatte alle alte cariche sono legate alla funzione e non alla persona. E quindi ovviamente di questo terremo conto nella nostra proposta. Intanto il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani ha indetto una conferenza stampa, naturalmente per parlare di riforme, per parlare anche delle agende del governo. Siamo in diretta con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Pierluigi Bersani inaugura il 2010 lanciando segnali di disponibilità a Berlusconi. Sulle riforme vogliamo dialogare, dice il segretario del PD, ci sono le condizioni per farlo da domani e senza aspettare le elezioni regionali. Ma attenzione, avverte Bersani, se la destra invade il Parlamento con uno tsunami di iniziative che hanno il solo scopo di mettere al riparo il Premier dai suoi guai giudiziari, se ne prenda la responsabilità. Insomma, dialogo sulle riforme sì, ma non su leggi salva Premier. Per questo Bersani chiede a Berlusconi di dimostrare se mette davanti se stesso o i problemi del paese. Ma poi il segretario spiega quale vuole essere il vero significato di questa conferenza stampa di oggi, quello di capovolgere l'agenda della discussione. Al primo posto non ci può essere sempre la giustizia, le priorità sono altre: il mercato del lavoro dei giovani, la scuola, il carico fiscale su imprese e lavoratori. Bersani ha poi affrontato il tema della scelta del candidato del centro-sinistra per le prossime elezioni regionali nel Lazio. Sulla Bonino non abbiamo pregiudiziali, dice, ma sentiamo la voce di Bersani. Noi dobbiamo trovare tutti i meccanismi che ci consentissero, diciamo, di aprire il quadro di relazione, di alleanza, eccetera, sono i benvenuti e quindi tutte le soluzioni sono... Naturalmente se ci sono le condizioni politiche, ecco, fin qui mi pare che non ci siano, ecco, questo è il punto per quel che riguarda il Lazio. Quanto all'accordo firmato oggi dall'UDC con la Polverini nel Lazio, dice Bersani, ne prendiamo atto, anche se ovviamente non condividiamo, mentre sulle eventuali primarie in Puglia deciderà l'assemblea del Partito Democratico e della sede del PD a Roma. È tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Ora parliamo dei disservizi delle ferrovie sull'alta velocità. Nuovi dati emergono da un'indagine torinese. Un'inchiesta sull'alta velocità da cui emerge, dati alla mano, che il debutto dei Frecciarossa è stato davvero pessimo, con il 70% dei treni in ritardo di oltre 15 minuti. L'inchiesta è quella aperta dal sostituto procuratore di Torino, Raffaele Guariniello. I dati sono quelli raccolti dalla Polfer su richiesta del magistrato torinese e rivelati oggi dal quotidiano Repubblica. Su 400 Frecciarossa monitorati nei primi 8 giorni di servizio, solo 100 hanno contenuto il ritardo nei 15 minuti, mentre per gli altri 300 si va oltre il quarto d'ora e per 50 di questi si supera l'ora. Trenitalia controbatte con le cifre più sfumate dei tempi di percorrenza su un periodo più lungo, dal 13 dicembre al 5 gennaio, e così i ritardi di oltre 15 minuti si fermano al 25% dei convogli. È presto per fare valutazioni, dice Guariniello, che conferma di aver chiesto alla Polfer di raccogliere i dati dalla stessa Trenitalia. Abbiamo chiesto alla Polfer di fare una serie di accertamenti sul sovraffollamento, perché abbiamo ricevuto delle lamentele, no? Per un problema evidente di verificare se c'è una questione di sicurezza, e poi sul problema dei ritardi. Ora l'inchiesta della procura torinese proseguirà sulle cause di tanti disservizi per capire se questi hanno aspetti penalmente rilevanti. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. L'Islam è il centro del nostro sondaggio quotidiano. Il dibattito l'ha lanciato il professor Giovanni Sartori, scrivendo sul Corriere della Sera che non esiste nella storia un solo caso di islamici che si siano integrati in società non islamiche. Questo perché la loro religione è un monoteismo invasivo teocratico che si sta infiammando. Dunque, aggiunge Sartori, guai a pensare di integrare gli islamici italianizzandoli e dando loro una cittadinanza veloce. Dibattito aperto, e nel nostro sondaggio il 78% di ascoltatori dà ragione al politologo fiorentino, che rincara la dose e se la prende con quelli che definisce pensabenisti. Sono tutti coloro che hanno sostenuto che basta dare la cittadinanza e l'integrazione avviene. Dare una cittadinanza gratuita non solo è pericolosissimo, perché possono creare il partito islamico e poi chiedere le elezioni, si sa come vanno, voglio dire. Chi ha voti ottiene, vero? Bianco Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Alle 13 minuti e 34 secondi ci fermiamo qui, ora la viabilità. Dopo, nella seconda parte, parleremo della Eurostar bloccato nel tunnel della Manica, delle gravissime vicende legate alla mala sanità, di sport e di spettacolo. Sono le 13:16 minuti e 9 secondi. Nella prima parte, lo Yemen, il ministro dell'interno che dice che il capo di Al-Qaeda è ancora in fuga, il vertice con Maroni e Alfano contro la criminalità a Reggio Calabria, il lodo Alfano con l'immunità che diventerebbe più lunga e i giorni neri dei Frecciarossa con 3 su 4 che sono arrivati in ritardo. Nella seconda parte, in apertura, l'Eurostar bloccato nel tunnel della Manica. Anno nuovo, guasti vecchi per i treni Eurostar. Dopo il blocco del traffico registrato lo scorso dicembre causa maltempo, il tunnel sotto la Manica è di nuovo al centro della cronaca in questo inizio di 2010. Un treno che viaggiava da Bruxelles a Londra si è infatti bloccato nel tunnel per problemi di trazione. Lo hanno reso noto le ferrovie francesi, precisando che a bordo ci sono 260 persone. E mentre si fa sapere che il treno verrà trainato fuori dal tunnel, quelli di Eurostar hanno sospeso tutti i loro servizi per precauzione. Ad ogni modo, questo déjà vu non sarà privo di una coda di polemiche, e in attesa di versioni ufficiali sulle cause di questo nuovo guasto, quelli di Eurostar sembrano di nuovo attaccarsi al maltempo e per ora si limitano ad un invito. Invitano i passeggeri a rinviare i viaggi previsti per la giornata di oggi. Igor Fiatti, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. La commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari e i disavanzi sanitari regionali, presieduta da Leo Luca Orlando, ha aperto un'indagine in merito alle morti di due neonati avvenute nel reparto di terapia intensiva degli ospedali di Foggia per sospetta setticemia. Chiesta una relazione all'assessore alla sanità pugliese per accertare tutte le responsabilità. La nostra Adriana Fracchia ha intervistato il presidente della commissione, Leo Luca Orlando. È un vero bollettino di guerra che da una parte conferma l'esistenza di un numero elevatissimo di errori sanitari presunti, che devono essere evidentemente accertati, dall'altra parte che sta crescendo la coscienza dei cittadini che la salute è un diritto. È necessario che le regioni, le autorità responsabili, i direttori generali e i manager si rendano conto anche della loro responsabilità, perché dietro il chi dell'errore ci sta quasi sempre un perché quell'errore. Il perché è legato a ragioni logistiche, organizzative. Il chi e il perché dell'errore coincidono soltanto in casi limiti, ma in moltissimi casi il chi dell'errore richiama anche un perché dell'errore. Oramai il fenomeno riguarda pressoché tutte le regioni d'Italia, a conferma che gli errori e le disfunzioni possono essere in tutta Italia, ma anche a conferma che sta crescendo una coscienza che la salute è un diritto e non si può pensare che l'assessore regionale, che il governo regionale, che il direttore generale risponda soltanto per come spendi i soldi e non per come si uccidono le persone. La cronaca ci porta in Veneto, dove prosegue la caccia ai responsabili del tentativo di bruciare un clochard. Hanno buttato liquido infiammabile sui cartoni con cui il barbone si copriva, poi gli hanno dato fuoco e sono scappati. Ragazzini tra i 15 e i 17 anni, maschi e femmine. Un gruppetto che spesso si aggira in Corte Badoera a Venezia, a due passi dalla Basilica dei Frari, dove da 8 anni vive anche Marino, un 61enne senza tetto che tutti in zona conoscono. Ma nemmeno l'orrore che abbiano tentato di arderlo vivo mentre dormiva riuscirà a sradicare il clochard da quella che lui ritiene la sua casa. La denuncia dell'accaduto è venuta dai vicini, alcuni dei quali sono stati testimoni della sconcertante episodio, e si mostra particolarmente preoccupato anche l'assessore alle politiche sociali del Comune di Venezia, Sandro Simionato. In questa città finora nessuno è mai rimasto solo e continua a non esserlo. Anche il signor Marino, insomma, è un caso da noi conosciuto almeno una decina d'anni, dopodiché io credo che ci sia una grossa dose di responsabilità da parte di questi minori, è per quello che parlo di emergenza educativa. Il dramma è pensare che ci siano dei giovani che riempiono i propri vuoti esistenziali facendo azioni di questo tipo. La zona dove il fatto è avvenuto è spesso frequentata da ragazzini che vanno a fumarsi uno spinello o da spacciatori. Episodi analoghi però in città non erano mai accaduti. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Pioggia, vento e neve. Il sole non scalderà il fine settimana, che resta umido e freddo per un nuovo sistema nuvoloso in arrivo dal Mediterraneo occidentale già da questa sera. Il nord della penisola sarà coperto dalla neve con i conseguenti effetti collaterali dovuti al ghiaccio. Fiocchi anche a bassa quota su Piemonte, Liguria, Emilia e successivamente verso sera sulla Lombardia. Il centro-sud saranno sferzati da forti venti, da abbondanti piogge e c'è l'allarme fiumi. Tevere sorvegliato speciale, per questo pomeriggio si attende una nuova piena dopo che ieri in Umbria e nel Viterbese aveva in più punti rotto gli argini. Nella capitale le abbondanti e incessanti piogge avevano fatto salire i livelli a quota 11 metri. Il coordinamento nazionale FIOM CGL è riunito a Termini Imerese per esaminare il piano industriale Fiat presentato il 22 dicembre a Palazzo Chigi. Si farà il punto sulla situazione nella fabbrica di Termini Imerese, dove la Fiat ha deciso di non produrre più auto a partire dal 2012. Il sindacato valuterà anche alcune iniziative di lotta. La Fiat di Termini lavorano, ricordiamo, 1.350 dipendenti, altri 600 sono occupati nell'indotto. Restano in assemblea permanente i lavoratori del call center ex Omnia Network, che da mesi non ricevono più lo stipendio e neppure gli acconti promessi. I sindacati hanno organizzato un presidio questa mattina davanti alla sede del Sole 24 Ore, poi in Piazza Affari protestano perché vogliono garanzie, 3 mesi di stipendio, progresso, e vorrebbero anche non perdere il lavoro. Cristina Carpinelli ha intervistato uno dei lavoratori in presidio. Noi in Omnia Serving Center e controllate, diciamo, siamo 2.200 lavoratori. L'ultimo stipendio che abbiamo preso è arrivato il 10 di novembre, riferito alle competenze del mese precedente. Dopodiché l'azienda ci aveva garantito che ci avrebbe pagato entro il 15. Questa data non è mai stata rispettata. noi non abbiamo più visto una lira. Quindi voi perdete il lavoro e perdete anche gli stipendi pregressi, ma non avete neanche l'ammortizzatore sociale di una cassa integrazione. Allora, il nostro contratto collettivo nazionale non prevede la cassa integrazione. Dopodiché ci sarà la situazione nella quale Omnia Network si andrà a riquotare in borsa probabilmente, nonostante il fatto che siano venute fuori anche dalla Consob delle forti irregolarità su una serie di operazioni. Vuol dire che c'è stato un falso in bilancio, però il falso in bilancio adesso non è pure depenalizzato. 13:23 minuti e 37 secondi, lo spot, il calcio, sta bene il giocatore dell'Inter Christian Chivu, operato ieri alla testa dopo l'infortunio nel corso della partita di Verona col Chievo. L'attacco effettuata questa mattina ha dato esito positivo, ma il medico dell'Inter Combi non si è sbilanciato sulla ripresa dell'attività agonistica. Antonio Conte si è dimesso questa mattina da allenatore dell'Atalanta, decisiva la sconfitta di ieri contro Napoli, sarà sostituito da Mutti o Sonetti. Lo sci italiano si gode il nuovo tomba, Giuliano Razzoli, emiliano di 25 anni, ha conquistato a Zagabria il primo trionfo in Coppa del Mondo di slalom. Lo ha intervistato poco fa Massimo Di Scienza. È un'emozione particolare, è una cosa che sogni fin da piccolo, quando prendi gli sci ai piedi, quando inizi a fare un po' più, inizi a fare un po' le prime garette o vedi i campioni che vincono la Coppa del Mondo, è un sogno che si avvera e poi è un traguardo e anche un punto di partenza, come tutti gli obiettivi di solito in questo sport. Più emozionante il momento in cui hai tagliato il traguardo o quando un mito come Alberto Tomba ti ha preso in braccio per il trionfo? Diciamo che è un susseguirsi di momenti indimenticabili, quando ho visto che ero primo al traguardo, poi primo anche che ho vinto la gara, quando è arrivato in fondo Erste, che Albertone mi ha alzato, insomma è stata un'emozione speciale. Quando sono salito sul podio con l'Inno d'Italia, anche lì ho avuto qualche momento di commozione, poi dopo tutti i miei compagni di squadra, i miei tecnici, le mie famiglie che era lì, insomma, gli abbracci, è stato molto bello. Ma pesa questa etichetta di nuovo tomba? No, non mi pesa niente, perché tanto è una verità che è, diciamo, un paragone quasi impossibile, quindi io vabbè, lo prendo perché faceva piacere, ma non mi pesa proprio niente. Ancora notizie di sport, semifinale tutta italiana al torneo femminile di Auckland che apre il 2010 di tennis. Nella notte si sfideranno Francesca Schiavone, che ha sconfitto la francese Cornet, e Flavia Pennetta, che ha battuto in due set la russa Cibulkova. Il mercato della musica è in crisi, le case discografiche inventano nuove strategie di marketing, alcune veramente estreme. Vendere dischi sempre più difficile. Se per la musica in formato digitale c'è il problema della pirateria, per i supporti fisici il problema è proprio quello della sopravvivenza. La strategia più comune? Rendere i CD sempre più ricchi, versioni deluxe con contenuti extra, anche molto stravaganti. Nell'ultima edizione limitata, Lady Gaga ha inserito una ciocca di capelli suoi, assicura, mentre Mika si è inventato una sorta di raccolta punti come al supermercato. Ogni volta che i fan partecipano a un'attività, guadagnano punti e vincono premi. A quota 500.000 si ottiene un concerto privato. Ma è davvero questa la via? Enzo Mazza, presidente della FIMI, la Federazione dei Discografici Italiani. Oggi non è più solo il supporto a richiamare l'attenzione, ma c'è tutto un indotto intorno all'artista. Stesse case discografiche oggi vengono definite music entertainment companies e non più record companies, il che vuol dire che si lavora proprio a 360 gradi. E operazioni di questo genere riguardano anche gli artisti italiani: inserire la maglietta, il biglietto per il concerto esclusivo a casa che puoi vincere attraverso l'acquisto del disco. Il contenuto fisico deve diventare qualcosa che veramente ha un forte appeal per il consumatore. Edizioni limitate vendono di più delle edizioni più comuni. Marta Cagnola, GR24, il Sole 24 Ore. E chiudiamo questo nostro giornale radio con due notizie che sono appena giunte. Il primo riguarda il rapporto Obama, che sarà uno shock, sarà presentato questa sera. Il presidente svelerà oggi nuovi dettagli sul mancato attentato di Natale, ma James Jones, uno dei consiglieri per la sicurezza, dice che gli americani proveranno un vero shock quando ascolteranno tutti i dettagli sul fallimento degli 007 che non sono riusciti a fermare Farouk Abdul Mutallab, il giovane nigeriano che ha tentato di farsi esplodere in volo. La Casa Bianca sta già parlando di errori inaccettabili. Secondo Jones, intervistato poco fa da USA Today, sarebbero evidenti legami con la strage di Fort Wood. Anche questo è un fallimento dei servizi che non sarebbero riusciti a prevenirla malgrado tutti i campanelli d'allarme. Poi invece una notizia che riguarda il nostro paese: al massimo entro 3 mesi sarà avviata la sperimentazione dei cosiddetti body scanner in 3 aeroporti italiani: Fiumicino, Malpensa, Venezia. Lo hanno annunciato poco fa i ministri dell'interno Maroni e delle infrastrutture Matteoli al termine di un vertice all'ENAC. Vi saluta qui Daniele Biacchessi, le prossime notizie alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.